Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cicchi ti aspettano. Siete le Cicchi's Girl. Chiquita boom boom. Chiqui. Prima di tutto complimenti a Elena e Caterina per le ottime due settimane. Then I want to thank all the sponsors. Grazie agli sponsor, al direttore del torneo, che rendono possibile questo bellissimo torneo. Amo l'Australia, sono contentissima di essere qui. And for sure I want to thank sicuramente grazie anche a Roberta, perché mi aiuta. Abbiamo dei momenti molto difficili, abbiamo avuti durante questo torneo, però lei rende le cose più facili. Avere lei dall'altra parte del campo è una grande amica, è una bella cosa. Grazie ai nostri coach, gli amici che sono sempre lì. Sappiamo che spesso vi facciamo arrabbiare, però cerchiamo di dare il meglio. Non è sempre facile riuscirci. Abbiamo fatto un buon lavoro quest'oggi. Ovviamente adesso divertitevi col match del giorno Federer e Nadal. E buona serata. E anche noi cominciamo ringraziando gli sponsor, il direttore napoletano che non ci ha ancora cacciati via, e poi ringraziamo i nostri tifosi. Pardo, il cosa mio, dici? Il mio coach. Il tuo coach? Qualche volta faccio arrabbiare, ma io cerco di fare il meglio. Sì. E penso che lui lo sappia. Poi? Anzi, lei, che è più figo, lei. Poi che ringraziamo questo meraviglioso pubblico 800240024. Poi cosa manca? Nell'iconografia classica. Che noi rispettiamo tutti gli avversari, ma non temiamo nessuno, non abbiamo paura di nessuno. E poi metteremo il massimo impegno, però la palla è rotonda e il cubo è quadrato. Allora, no, applausi in piedi, ovviamente, standing ovation per Saretta che abbiamo sentito e Robertina. Errani vinci sul tetto del mondo di nuovo, quarto titolo dello Slam, vincono gli Australian Open. Pardo è svegliata alle 5:30 di questa mattina per prepararsi al match che peraltro è stato intensissimo ringraziamo anche gli avversari perché ci hanno permesso di ci permettono di dare il meglio. Yekaterina Makarova e Yelena Vyesnina che hanno perso, si sono inchinate 6-4 per il nostro primo set, 3-6, e nel terzo set Errani e Vinci erano sotto 5-2, quindi a un passo dalla sconfitta, e invece 7-5 per noi e Australian Open portato a casa la partita del giorno. Federer-Nadal è stato invece un massacro a favore dello spagnolo, 7-6, 6-3, 6-3. Federer mi sembra fosse un giocatore di calcio, sarebbe pronto per il campionato americano o quello cinese o quello australiano. Sì, va bene, no, non è il Federer di prima, cioè, è chiaro, forse non tornerà mai più il Federer di prima. Sai però... ha perso in 3-7, 7-6, 6-3, 6-3. Quindi finale Nadal Vavrinka. Sai qual è lo score del confronto diretto Nadal Federer? No, 23 no. A 10 per lo spagnolo. Mica male, A parte questo, molto bene. Sì. Senti, Pier, hai visto le foto segnalettiche di Justin Bieber? Sì, ho viste. Bellissime, Si è messo in posa col sorrisone. Pieno di qualità, dai. Voglio anche io una foto segnalettica. Ho visto anche quella. Credo che a Santa Fe ci sia stata una maestra, professoressa, che è stata arrestata perché avrebbe chiesto a un suo allievo di detto proprio: tu non esci da qui fino a quando non. E credo sia stata arrestata a Santa Fe, signorina, sì, non so il cognome, però insomma. E anche lei c'erano le foto segnalettiche. Sì, comunque. Facciamo come i Cubs di Miami, invece di torchiare Justin Bieber questa gigantesca montatura, torchiamo sul serio Luca Marchetti da Sky. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Qui poi quanto le sto valorizzando, Marchetti, prima che cominciamo, quanto le sto valorizzando da 1 a 10? 7 e mezzo. 7 e mezzo, vabbè, possiamo fare di più. Ma ti puoi accontentare, no? Sì, beh, insomma, però non aspettavo, sì, un ringraziamento. Bisogna sempre tenersi bassi con te, Pier, perché poi ti allarghi sempre tu. Sì, vabbè, però Luca, tu fai il bravo, quindi anche tu ringrazia gli sponsor, come ha fatto le Rani, certo, prima, ringrazia Pardo, ringrazia anche me. Già noi che l'abbiamo voluto, noi l'abbiamo scelto fra milioni. Poi, questo quando volete, quando volete. Io ringrazio, certo, tutti. Bravo. Se potevamo chiamare anche Stefano, potevamo chiamare Di Marzo, potevamo chiamare Bargigia, invece abbiamo chiamato Luca Marchetti, voglio, certo, dire, certo, certo. Poi faremo... Faremo le foto segnaletiche come Justin Bieber. Allora, adesso però ti pianto la luce negli occhi e ti interrogo. Vai. Stamattina sono andato al bar, l'unico posto dove si sentono cose serie, mi hanno detto Guarin Val Catania. Vero o falso? No. Falso. Dove vanno Vucinic e Guarin? Questo è molto più difficile. Questo è molto più difficile. Secondo me c'è il rischio che rimangano ognuno nella propria squadra. Pardo, ci credi? Per me Guarin va all'estero. Per me Vucinic potrebbe andare al Monaco. Ci sono stati dei contatti, ti dico la verità. Però il Monaco, da quello che sappiamo noi, ieri aveva deciso di richiamare la Sina Traoré in Francia. L'avevano preso dall'Angie, l'avevano girato in Inghilterra e sarebbero a posto così. Hernanes resta alla Lazio? Adesso sì, a giugno non lo so, ma adesso sì, lo Tito chiede 20 milioni. Milan e Siena, e poi l'Inter non li ha, lo voleva l'Inter non li ha, vabbè, non è neanche due, ma figurati, esatto, se ne esquisito. E Siena, e poi al Milan? Ma e Siena io non sono ancora così convinto che si possa fare, perché lui ha l'accordo con il Milan, ma non ha l'accordo con il Chelsea. Vorrebbe una buona uscita per andare via e questa buona uscita non c'è. Il Chelsea, da quello che sappiamo noi in questo momento, non ha assolutamente intenzione di dargliela. Tra l'altro oggi Mourinho gli ha detto: noi saremmo più contenti rimanesse, quindi le cose non si stanno mettendo bene. Sì, anche perché, caro Pardo, a Milano non c'è una lira, né al Milan né all'Inter. Questo mi pare evidente, in Italia in generale, a Milano in questo momento in particolare, sì. Allora, dopo il traffico continuiamo. 800240024, se avete anche voi delle domande. Convocati. Luca Marchetti, so che hai avuto del trash talk con Di Marzio. Sì, ci stavamo prendendo in giro, a dire la verità, però nessuna notizia. Gli ascoltatori oggi sono veramente scortesi e scontrosi, almeno quelli che scrivono SMS. Tipo fa bisognare. No, lascia stare, poi ti rimando via mail. Mandali pure a me, però. Certo, sei qui anche tu. Vai avanti tu. Nocerino West Ham si fa, è partito stamattina, Nocerino ha fatto mezzogiorno e mezza. Sì, credo che peraltro sia stato quasi accelerata questa trattativa dai fischi di San Siro dell'altro giorno. Diamanti è contento in questo momento oppure Girode? Secondo me un po' gli rode, perché i soldi che arrivavano dalla Cina erano veramente tanti per lui, erano 11 milioni in 3 anni netti. Il problema della trattativa è stato che il Bologna ha posto delle condizioni molto rigide dalle quali non si è mai mossa, perché avrebbe voluto tutti i soldi dei cinesi subito, al momento della firma, compresi anche tutte le vari pagamenti che devono essere fatti per le squadre che hanno fatto a diventare diamante un giocatore, quindi dal Prato in poi. E questa cosa non è possibile per questioni burocratiche in Cina adesso, ci sono dei piccoli ritardi, ma i soldi c'erano, però il Bologna li voleva tutti e subito e la trattativa è saltata. Adesso il Guangzhou si dirige verso Parma e su Biabiani. Pardo. No, mai che vengono qua che vogliono comprare 2 giornalisti, 3 giornalisti, no. Darci, non lo so, magari. No, bisogna imparare il cinese, Pier. Noi andiamo in Cina, sì. Bah, sì. Io sono... mi sento anche per meno, eh. Anche per meno? Beh, sì, lo trattiamo, si tratta. Senti, sì, trattiamo. Domanda per tutti e due, comprerete la nuova maglia camouflage del Napoli? Quella con gli interni. Io personalmente no. Pardo? A me piaceva più quella prima, io sono uno, mi sono espresso, l'ho già detto, che la maglia camouflage mi piaceva. Lo so, è una cosa un po' bora, come diciamo noi a Roma, cioè un po' eccessiva, però a me piace. È bora, sì, anche a me piace. Insomma, è un po', chiaramente, un po' chiassosa, non è esattamente la sobrietà, penso che lo sappia pure De Laurentiis, però a me piace, forse sono boro io, probabilmente questo. La spiegazione è molto allora, semplice. Quella precedente era più bella, però anche questa non è male, è più bora ancora. Rispondiamo così a Sara che dice: per favore intercedi col mitico De Laurenti se blocca la vendita della maglia del Napoli presentata ieri, perché è vero che Carnevale sta avvicinando, ma tu e Pierluigi siete stati i migliori e più belli a Pitti Uomo, non potete esimervi dal dare questo consiglio. Sara, a noi piace, siamo tamarri, siamo così. Sì. Poi che altro, quella vecchia è stata fatta fuori perché se non è perché non ha portato bene, può essere? Io credo Napoli, può sì. Ma può essere. Sì, io credo che il motivo fosse quello, che sono andati sulla gialla, che invece ha portato bene andare in Lazio Napoli. Adesso posso ricordarmi tutte le maglie del Napoli quest'anno. Non mi piace quella gialla, a me non piace quella gialla. Marchetti, qualcuno comprerà Tyson Osvaldo? In questo momento no, perché finora si era parlato di prestiti e Osvaldo non accettava i prestiti. Magari adesso, dopo questo diverbio, accetta pure il prestito. Diverbio? Sì, diverbio per dire in maniera gentile. Dai. Lo ha fatto sanguinare, diverbio. Appunto. Allora, verbio tagliente. Domanda per tutti e due, vediamo chi sa rispondere. Prima Pardo, sai perché? È una gara, no? Ecco, appunto. È una gara, certo. Poi arriva Mica e Pier. Arriva Mica e dai voti, alza le palette. Sapete. Tu sei bellissima voce. Perché la Juventus è sull'orlo di una profonda crisi? Secondo me non è sull'orlo di una profonda crisi, non capisco cosa c'è dietro, ci sarà qualcosa che mi sfugge. È una battuta, cioè sarà l'anteprima di una battuta, dai. Stai preparando una battuta. Dico. Dai, vai, gente. No, essi uomo, vai fino in fondo, vai. Ve lo racconto dopo la borsa. Questo ve lo racconto teaser, dopo la borsa. Teaser, i mercati. Senti, ma non c'ho i mercati adesso. Okay. Lasciamo nella suspense. Mettiamo un crawl come ma dopo la borsa si dopo le 5? Non dopo Barisoni, dopo la borsa. No, allora alle 35. Scusa, Marchetti, non conosci a memoria il palinsesto delle 24? No. Prossima se volta. Se ti dico cuore e denari, la prossima se volta. Se ti dico cuore e denari, vai in onda di mattina o di pomeriggio? Facciamo un test su Marchetti, sentiamo. Mattina, è un nome da mattina. Melug, questo è difficile, eh? Questo secondo me è tardo pomeriggio. Tardo, che segniamo per tardo. Oh, Luca 18. Marchetti vorrebbe essere Justin Bieber in Gattabuio in questo momento. Lui invidia molto. Il telefono, vai la prima o dopo di noi? Prima mi preparo. La prossima volta mi preparo, no? Non è che potete. Tu devi avere la freccia lata da ascoltatore di radio. Pubblico ludibrio, mi hai esposto al pubblico ludibrio. No, allora, prima di salutarti, Luca, però io ho ancora una domanda per te, non so se Pardo vuole andare avanti. Mentre Donatella Scarnati su Twitter scrive: tutti in Cina, magari. Ci sta ascoltando, la salutiamo. Sì. Allora, Marchetti, chi arriverà a Tiki Taka? Che ne so, chiedi a Pardo, sta lì. No, a Pardo, tu sei l'esperto del mercato. Ma Tiki Taka, non lo so, sì. Tiki Taka, Pierre potrebbe far venire chiunque, forse anche Justin Bieber. Ti ringrazio della fiducia. Con Justin c'è un rapporto profondo, ci stiamo lavorando, adesso ha questo problemino, così di natura penale, ma una volta risolto non mancherà occasione, Vabbè. Altre cose di mercato, il Napoli che prende, dai, mi interessa di più. Il Napoli è un po' in difficoltà sul centrocampista e questo mi pare evidente, non vuole spendere troppi soldi per Capù, perché il Tottenham chiede 15 milioni, le alternative finora non hanno convinto fino in fondo e quindi non escluderei io, che è già quello che ha fatto il Napoli anche nella passata sessione di mercato, che si tiene i soldi per tentare un colpo importante, anche perché mi sembra che Benitez sia molto esigente in fase di campagna acquisti. Preferisce avere meno giocatori, ma quelli che prende che siano proprio di qualità superiore rispetto a quelli che già ha. Questo può essere giusto, ma dietro niente, eh? Ma sei incartato il Napoli del Maglio, per caso. Credo che la difficoltà principale sia proprio quella di individuare dei giocatori che rientrino nei parametri Napoli economici, ma che allo stesso tempo facciano diventare il Napoli una squadra più forte. Non è facile trovare giocatori più forti di quelli che ha il Napoli rimanendo nei parametri economici da Napoli. Antonio, abbiamo ascoltatori molto preparati che ci informano che la vecchia maglia camouflage era di proprietà intellettuale di azienda concorrente alla Macron, quindi non più utilizzabile. La ragione è questa. C'è anche Michele, che invece è un fan di Marchetti e che domanda notizie su Gonalons e Coupé. Su Gonalon credo che ormai dobbiamo metterci un po' l'anima in pace, perché sono stati fatti ulteriori tentativi, mi sembra che il discorso con il presidente Olà si sia interrotto. Frédéric Guerra, che è il suo procuratore francese, procuratore di Gonalon, sta cercando di riaprirle, perché poi ogni tanto, l'avete viste pure voi, arrivano dichiarazioni contrastanti, non vuole pagare il 75% delle tasse, però lo vuole tenere, insomma, però il presidente De Laurentiis non riesce a parlare con Olà, quindi questo ha innervosito molto il Napoli. Su Capu, ripeto, i 15 milioni che il Tottenham chiede sono troppi per il Napoli. Beh, poi secondo il Napoli non vale quella cifra lì. Aulas ha fatto, ha fatto un numero alla Doir su Gonalon, non sbaglio. Cioè, sì, adesso sì. Poi è stato meno clamoroso, perché chiaramente non c'è una rivalità tra il Napoli e il Lione, mi sembra la stessa dinamica. Sì, hanno fatto un prezzo, il Napoli è arrivato a quel prezzo e l'ha detto non lo vendo più. Senti, vorrei sentire un paio di ascoltatori che sono in linea. Emidio Ascoli Piceno, buongiorno. Buonasera. No. Devo liberare Luca Marchetti, che ha da fare. Luca, grazie. A voi. Se è andato benissimo, non chiamiamo Di Marzio, chiamiamo ancora te la prossima volta. Benissimo, grazie, sono contento di essere stato confermato. Sì, stai calmo, continua a allenarti. No, è la felicità va espressa, ragazzi, è un sentimento positivo. Ringraziarci pubblicamente? Ringraziaci. Ciao, grazie a tutti. Anzi, grazie soprattutto a voi due. Grazie soprattutto a voi due. Va bene, dai, Pier, va bene così. Emidio, buongiorno. Sì, salve ragazzi, grazie per avermi richiamato. Grazie a te, dimmi. Una riflessione sul Milan. Io dico che in tutti i campi, dal politico, l'economico, lo sportivo, in tutti i campi, chi non ci capisce niente sono proprio gli addetti ai lavori. Ma come si fa a non accorgersi che i guai del Milan sono Balotelli? Io so che Genta è innamorato di Balotelli, sì, però giocare platonicamente, con Balotelli, calcisticamente, sia chiaro, è giocare con un uomo in meno, sì. Perché avete visto l'altra sera tutti gli altri giocatori, quando perdono, sbagliano un passaggio, si dannano l'anima per recuperare la palla, lui invece che fa si ferma e guarda. Sì, infatti ha segnato Birsa l'altra sera. No, ha segnato lui, però quel gol lì lo facevo anche io, perché gli è arrivata la palla fra i piedi, era il minimo che poteva fare, metterla dentro. E lo so, Emidio, ma dei gol che facevo anch'io sono è piena la storia, intanto bisogna essere lì, arrivarci e farlo. Guardi, io una volta sono diventato matto allo stadio perché ero a vedere una partita del Milan e c'erano tifosi del Milan che criticavano Van Basten, dicevano ma qua lì il cura no. Vale tutto, secondo me è il contrario di quanto lei dice, ma poi il mondo è bello perché è vario, anche Pardo la pensa come lei, credo. No. Sì, ma sicuramente ci sono delle cose che una chimica, una musica, chiamatela come volete, all'interno delle squadre che non c'è o non c'è, che significa evidentemente moltiplicare l'energia, darsi la mano, avere uno spirito di squadra, non mollare, sono caratteristiche che vanno oltre il valore singolo dei giocatori. Sicuramente nel Milan in questo periodo, per esempio in quello che abbiamo visto l'altra sera contro l'Udinese, questa musica non c'è, questa chimica di squadra non c'è, ed è uno dei problemi, forse è il problema principale. Poi è chiaro che la poca chiarezza che c'è stata dal punto di vista societario può aver influito, cioè si può anche pensare che ci sia stata una precisa correlazione fra i disastri in campo e la confusione o comunque la riorganizzazione societaria, perché poi insomma le fasi di transizione ci sono, il Milan magari troverà una sua strada dal punto di vista della gestione dei ruoli fra Barbara Berlusconi e Galliani, glielo auguriamo, insomma ci mancherebbe altro, per cui poi magari questa cosa funzionerà, però io penso che quest'anno sia stato un anno sbagliato da ogni punto di vista fino a questo momento, no? Un anno di transizione nel senso profondo, nell'essenza, perché un anno nel quale tu cambi clamorosamente anche a livello societario un modello che fin qui era stato vincente, è inevitabilmente un anno di transizione. Va bene, Pier, ci fermiamo un attimo per la borsa. Poi c'è Antonio da Bologna, Marco da Milano, sono in linea. Ci sono un sacco di ascoltatori che con pochissimo senso dell'umorismo, mi dispiace, ma insomma, noi compriamo ascoltatori con senso dell'umorismo. Ok, li vogliamo tutti qui, li convochiamo tutti. Se poi c'è chi vuole mandarci in Cina, chi chi dice che vedo che oggi nessuno accenna alla risposta di Toira alla Juve, eh? Eppure mi sembra che ieri ha aperto la sua trasmissione con l'accusa alla Juve, eh? Vabbè, poi parliamo, se volete ne parliamo, ma io voglio parlare della crisi della Juventus perché è reale, latente, pronta ad esplodere. Dopo la borsa ve la raccontiamo. Tutti convocati. Tra poco vi rivelo la fonte della crisi della Juventus prossima ad esplodere. Antonio Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io sono tifoso del Napoli e chiamavo perché sono un po' deluso dal nostro mercato. Prima sentivo Marchetti, quello che diceva. Sì. A me sembra che il Napoli sia un po' la signora Tintiniglia, tutti la vogliono, nessuno la piglia. Cioè, poi noi più che altro vogliamo un giocatore, poi offriamo comunque meno. Sembra quasi che ci sia un gusto strano in dire ci abbiamo provato però non siamo riusciti a prenderlo. Voglio dire, adesso parlavano anche di Ralf costa 6 milioni, se lo vuoi lo prendi, non che gliene dai uno di prestito e poi 5 per il riscatto. Cioè, non riesco a capire. Anche Moreno, un giocatore interessante, costa 18 milioni, se lo vuoi lo vai a prendere, punto, non che gliene offri 13. Cioè, non lo so, mi sembra intorno, ma mi sembra che in estate Antonio difesa, come? Problema più grave poi secondo me è la difesa, dove abbiamo Cannavaro che ho separato in casa. Sicuro. Da qua nessuno fa niente, nessuno compra, cioè nessuno parla della difesa, che insomma fanno errori enormi. A dire la verità Pierluigi Pardo ne parla tutte le volte quando accenna al Napoli, e ha ragione, perché il punto debole del Napoli è proprio quello. Poi non mi sembra però, Pier, che ci possa lamentare più di tanto del modo di agire del Napoli sul mercato. In estate però, è stato un mercato molto dispendioso. A me l'ascoltatore ha ragione, cioè a me sembra, anche alla luce delle dichiarazioni di De Laurentiis, che già un paio di mesi fa aveva detto che sarebbero arrivati 2 o 3 giocatori e si erano anche abbastanza chiaramente delineati i ruoli, un centrale di difesa, un esterno di difesa e un centrocampista, mi sembra che insomma fino a questo momento qualcosa non ha funzionato, c'è stato un certo incartamento, se mi passi questa espressione. Sì, sì. E tra l'altro ci sono stati due blitz clamorosi della Roma, 2 sorpassi clamorosi, prima Nainggolan e poi Bastos. Per cui insomma che qualcosa non abbia funzionato io credo che sia abbastanza evidente. I ballottaggi di mercato più la vicenda con Alon, Napoli per ora li ha persi, insomma poi il tempo ci dirà se veramente il Lione ha fatto bene a tenersi con Alon e la Roma ha fatto bene a fregare sul tempo Nainggolan, il Napoli su Nainggolan e Bastos. Però credo che sia una cosa evidente che insomma il Napoli penso si aspettasse un mercato di riparazione molto diverso, anche perché sennò certi giocatori non l'avrebbe cercati. Cioè, no, qui non è una società che ha deciso di non intervenire sul mercato, una società che ci sta provando ma che non ci riesce. Sì, ma per andare dove? Cioè mi sembra che il Napoli il terzo posto o il secondo posto meglio ancora devi ancora conquistartelo, sudarlo sul mercato, sul campionato, perché comunque la Fiorentina è a -3, perché comunque la Roma con un grande girone di ritorno il Napoli la potrebbe anche superare, perché no? Perché non deve avere questa ambizione? Sì, lo scudetto mi sembra irraggiungibile, in più c'è un'Europa League da onorare nel migliore dei modi, insomma non mi sembra che la stagione del Napoli possa considerarsi conclusa a gennaio, sarebbe abbastanza umiliante. No, ma però dopo un mercato estivo molto sostanzioso, molto sostenuto, molto costoso, io posso anche capire che il Napoli costoso, stia... Scusami Carlo, costoso però finanziato dalla cessione di Cavani. Finanziato dalla cessione di Cavani, però non è che in estate De Laurentiis non abbia speso, adesso hanno preso Jorginho, che comunque è Giorgio, come lo chiama Mandorlini, che comunque è un buon giocatore, insomma mi sembra che il Napoli con qualche ritocco possa crescere. Star lì a fare le aste a gennaio secondo me sarebbe forse sbagliato. Poi hai ragione sul fatto che un difensore serve e un difensore di livello dovrebbero andare a prendere. Marco Milano, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare un attimo della crisi del Milan. Piccola premessa, mi ha fatto ridere l'ascoltatore di prima che criticava Balotelli perché è l'unica roba buona che abbiamo, quindi sarà proprio assurdo criticare l'unico vero giocatore che abbiamo. Io la penso come lei, ma lo sa. Ma io sono perfettamente d'accordo. La mia critica è solo questa, io ho visto tutte le partite del Milan, Seedorf era fischiato da tutti a San Siro perché era uno che non correva mai. Lui entrava in un spogliatoio, non cambiava neanche la maglietta, non è proprio così. Insomma, è proprio così, mi creda, io sono sempre lì. No, la critica del Milan è che ness- nessuno corre, ma se l'allenatore è uno che non correva... No, però però Marco abbia pazienza. Allora, a parte il fatto che Seedorf, secondo me, è stato uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio, a parte il fatto che molte delle critiche arrivavano su Seedorf, quei fischi, eccetera, perché era pochissimo paracuro nei confronti dei tifosi, a parte tutto questo, adesso non si può dire che una squadra che ha lavorato con un altro allenatore fin qui, che ha fatto la preparazione con un altro allenatore fin qui, non corre, ed è vero che non corre per colpa di Seedorf, che è arrivato una settimana fa. Mi sembra anche a me, anche perché poi spesso la carriera da allenatore, o meglio la carriera da giocatore, il modo nel quale la squadra poi si esprime non è sempre identico, eh? Mondoni, che era un attaccante scapestrato, e non sempre le sue squadre possono stare squadre iperoffensive, anzi. Cioè non questa correlazione, sei non stato esiste. Così, non allora non la tua squadra giocherà in quel modo. E poi sicuramente Seedorf da calciatore non era un corridore, ma anche perché aveva cose migliori da proporre. Poi in qualche partita sicuramente sarà stato anche indisponente, insomma, agli occhi dei tifosi del Milan, però insomma io credo abbia fatto una carriera comunque di altissimo livello, certamente non basata sulla corsa, su questo non ci sono dubbi. Allora, crisi della Juventus. Ecco, sì, Roberto non ci crede, c'è chi dice vabbè, il ciclo Conte è finito, a fine anno dovrà andare via perché stressa troppi giocatori, ed è un'opinione che condivido. Potrebbe arrivare Prandelli, scrive qualcun altro, e magari sarà così. Però la ragione è un'altra, ce l'ha, l'ha rivelata non a noi ma a tutti quanti pubblicamente su Radio Monte Carlo Alfonso Signorini. Simili a degli eroi, abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi. Solo chi corre può fare di te la squadra che sei. Milone, storia di un grande amore, bianco che abbraccia. Oltre a Pirlo che si separa dalla moglie, sempre per rimanere in campo della nazionale e della Juventus, Buffon si separa dalla Serenova. No, ma questo è una bomba enorme, non ragazzi. Non ci posso credere, ma capisci? Ma che roba? Non lo so, lo chiediamo a Palmieri, che lui con i campi da calcio di spogliatoio. 9 anni e 2 figli. Palmieri, che succede? Allora, è vera sta roba o no? Allora, c'è questa voce che addirittura ci sarebbe di mezzo un macellaio, come in un film della Marietti, no? Scusa. Cioè, ha copiato l'Alba Nazionale. Però mi dicono i ben informati, diciamo, sì, che ci sarebbe una donna del mistero anche per Buffon. Facciamo le quote, capito. Diamo le quote, Alfonso. Infatti dicono, è Ilaria D'Amico, altro che macellaio. Io stavo già per dire, dicono ha belli capelli, ma insomma. Pare che Buffon veramente abbia preso sta sbandata per Ilaria D'Amico. Questo è il gossip del momento. Salutiamo, ragazzi. Ilaria. È inutile che ci giochiamo il no, no, no, noi non ci nascondiamo. Si è fatti cavallo dubbla faccia. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti il filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Guarda, se torna dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti. Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene? Per lei il filoncino speciale c'è sempre. Allora, faccenda del macellaio smentita, poi di questa storia, ma mi ha divertito molto sentire Signorini, mi fa sempre molto ridere. Tra l'altro posso dire, c'è una cosa che mi ha fatto morire da ridere, non so chi fosse, che a un certo punto, dopo aver scacciato la bomba, fa sì. Salutiamo Ilaria. Sì. Allora. Capito, cioè praticamente stai rivelando una cosa che fino a, insomma, almeno... per il grande pubblico era completamente sconosciuta e ciao Ilaria, ciao. Ciao, ti vogliamo bene. Vabbè. No, comunque, ho capito. Beh, insomma, però we are joking, no? We are joking. Sì, ma poi tra l'altro, no, su serio la storia del macellaio eccetera è stata smentita anche ufficialmente, mi risulta, mi dicono. No, vabbè, comunque, beh, crisi coniugale c'è, no? Pirlo che si separa. Le cose non nascono in un giorno, devo dire che l'effetto su Buffon se dovessimo giudicarlo dagli ultimi 2-3 mesi è stato positivo, perché dopo il famoso Fiorentina Juve anche lui è risorto, ammesso che insomma ci fosse da risorgere, con veramente un periodo straordinario. Quindi se questi sono gli effetti, al di là delle vicende private nel merito del quale è meglio non entrare, insomma mi sembra che Buffon sia in una fase serena, perché sta facendo benissimo. Tra poco parliamo invece di un divorzio vero, reale e anche molto serio. Paolo da Milano, prima però al telefono 800 24 00 24. Ciao Paolo. Sono in onda, eh? Sì, che è in onda. Sì, sì, sì. A proposito, mi scusi Paolo, è un po' che non sentiamo Ettore dal suo taxi, certo, di Milano. No, perché io vorrei sapere come la pensa lui su Inter Catania e Cagliari Milan, perché mi sembrano due partite molto difficili da pronosticare. Paolo, dica. Devo dare un giudizio su Inter Catania, eh? Faccia quello che vuole. Beh, uno fisso, ovviamente. Perché è interista, va bene. Penso anch'io che vincerà l'Inter, guardi, però è una partita difficile. Tensione. No. No, dai. Comunque io volevo fare un intervento di questo tipo qua, no? Siccome ho sentito prima Pierluigi Pardo che parlava di Toir, no? Sì, insomma, sì. Adesso io voglio dire, non è che possiamo paragonare il presidente Olà a Eric Toir, insomma, no? Perché? Toir è arrivato da poco, lo conosciamo da poco, insomma, se non lo conosciamo per nulla, cioè è arrivato qua, non è che ha preso un negozio di frutta o un negozio di scarpe senza che sapere le scarpe quali sono, insomma, voglio dire. No, bisogna aspettarlo un attimo, cercare di giudicarlo. Ma certo, no, ma il paragone è soltanto perché sono stati tutti e due protagonisti di clamorosi ribaltoni, cioè tutti e due avevano comunque fatto l'accordo con un'altra società e poi alla fine ci hanno ripensato, solo per questo. Poi Aulas sta da 20 anni a Lione, ha vinto i campionati, Toir è appena arrivato, quindi ci mancherebbe altro. Traffico, poi torniamo, grazie Paolo. Tutti convocati. Des del primer moment he dit que el fitxatge de Neymar és correcte. Aquesta junta directiva és un equip. I aquest equip lidera un projecte que ja ha donat grans fruits. No vull que atacs injustos afectin negativament la gestió i la imatge del club. I és per això que penso que la meva etapa aquí ha acabat. I ara, acollint-me als estatuts del club, he presentat a la Junta Directiva la meva dimissió com a president del Futbol Club Barcelona amb caràcter irrevocable. Quello che avete sentito era Rosella, ormai ex presidente del Barcellona. La notizia è stata letta ieri in diretta da Pierluigi Pardo, che ha al volo tradotto il comunicato, sa mille lingue più di Leonardo Pardo, sì. E al volo tradotto il comunicato del Barcellona. Dunque questo è, non so come stiano messi Casillas e la Carbonero, ma questo è veramente il divorzio dell'anno in Spagna. Filippo, sì. Maria Ricci, aspettalo, eccolo lì Filippo. Buongiorno, sì, è il divorzio dell'anno e poi forse non è l'ultimo, e soprattutto ci sono strascichi pesanti in tribunale, insomma, non finisce bene. Però ci sono di mezzo gli avvocati, insomma. Beh, ci mancherebbe altro, ci sono di mezzo anche un sacco di quattrini per questa storia. Ovviamente, per chi non lo sapesse o non se lo ricordasse, la storia è quella dell'acquisto non chiarissimo e soprattutto del pagamento non chiarissimo di Neymar, no Filippo? Esatto, loro dicono 57.1, secondo le ultime carte pubblicate dal Mondo siamo a 98 milioni. Cioè c'è una differenza sostanziale, piccola, soprattutto sì, ma voglio dire, intanto, cioè, ti ricordi c'era un tempo in cui quasi il club, soprattutto Real Madrid, andava orgoglioso di quanto spendeva, no? E quindi ti dicevano tutti i prezzi, anzi forse esageravano pure. Adesso ovviamente è tutto un po' cambiato, si cerca di tenere le cifre nascoste. Rosell ha definito questa operazione, dice, un'operazione di ingegneria finanziaria. Allora, il punto è questo. Probabilmente questo è un male comune nel calcio, chissà quello che succede, che noi non sappiamo a livello di, no, di spese, di come vengono pagati i giocatori, di come vengono, di come circolano i soldi. Comunque, il problema è che qua c'è un socio incuriosito, perché cosa succede? Questo trasferimento è strano dall'inizio, perché quei 57 che dice Roselli, 40 vanno alla società del padre di Neymar e 17 al Santos, che li deve pure dividere con altre due società che avevano, diciamo, percentuali del cartellino di Neymar. Quindi chi effettivamente c'ha, è padrone del calciatore, si prende 17 milioni e la famiglia se ne prende 40, quindi nasce male. Nasce strana, no, nasce strana, sì, sì. Ma questa nasce cosa strana. Strana che, dopodiché, quindi il socio gli viene la curiosità e dice: ma scusate, ma sti 40, ma siamo sicuri? Andando a scavare, vengono fuori che ce ne sono altri 20 più o meno, sempre per la famiglia, perché poi qualcos'altro il Santos rimedia con la prelazione su tre giovincelli e un paio di amichevoli. Sì, no? Morale, al Santos, che è proprietario del giocatore, 4 lire, la famiglia Neymar coperti d'oro, no? È così. Pardo, che ne pensi? Che dici? Che stavi dicendo? Penso che la vicenda, nei suoi aspetti, diciamo, legali, fiscali, dovrà essere chiarita, aspettiamo. Però credo che questo tipo di scandalo a Barcellona sia ancora più grave, proprio alla luce di quello che diceva prima Filippo. Cioè, il Barcellona ha avuto l'ambizione di essere sempre un po' laterale al potere, no? A certi malcostumi, non si può dire malcostume, ha un certo malcostume tipico del calcio di oggi, no? Il calcio finanziario, miliardario. Barcellona aveva sempre l'ambizione di essere una cosa un po' diversa. Beh, è stato senza sponsor per una vita. È vero. E chi l'ha portato lo sponsor? Roselle. Cioè, qui come dici tu, la linea che sta prendendo Pierluigi è quella corretta, cioè qui c'era la presunzione di fare le cose in un altro modo e adesso invece non solo non si fa in un altro modo, ma appunto, allora, la maglia è stata sporcata dopo più di 108 quanti erano anni di storia, sì. Per poi metterci, prima ci metti questa Qatar Foundation, per cui lì è un regime, cioè loro fanno anche quelli tra virgolette un po' di sinistra, e allora lì viene fuori che il Qatar è tanto libertario, non è, e loro ti vendono questa Qatar Foundation come se fossero, capito, tutti le migliori persone del mondo, e quindi già mi racconti un po' una bugia più o meno grande. Dopodiché diventa Qatar Airways e quindi proprio neanche più una fondazione, perché loro inizialmente dicono: no, ma una fondazione? No, è una compagnia aerea. Sì. E dopodiché adesso c'è questa storia dell'acquisto di Neymar e non ci siamo, ma però in tutto questo però c'è anche l'altra parte che diciamo, la testimonianza che effettivamente il Barcellona è un club diverso dagli altri, e che tutto questo casino, è chiaro che poi magari dietro al socio ci sarà qualcuno, però lo fa un socio, perché è vero che il club è in mano ai soci, tra virgolette, non lo è nel senso tecnico del termine, certo. Però un socio, voi dire, qui è veramente Pierluigi Pardo, Filippo Riccio, Carlo Genta, soci, no, del Borgo Rosso, no, questo non ci piace questa cosa, vai dal giudice, gli dici: guarda, puoi indagare, e il giudice indaga. Sì, e poi tra l'altro Rosel non ha dato risposte ai soci che lo interrogavano, li ha trattati abbastanza, in maniera abbastanza sdegnosa, invece ha detto: vabbè, se mi chiama il giudice vado lì e spiego. Sì, però poi il giorno, certo, esatto, e poi dopo cosa ha fatto il giorno dopo? Hanno annunciato, no, perché allora, col giudice lì, qua si vede Rosel, perché cosa succede? Prima lui dice no, chiede al giudice che non ammetta la querela, che non l'accetti, e quindi il giudice dice: no, guarda, io l'accetto. Allora dice: va bene, ok, chiamami a testimoniare. Dopodiché viene effettivamente accettata la querela, e lui cosa dice? No, quel giudice non va bene perché sta a Madrid, la causa deve venire a Barcellona. Allora, cioè, sono tre posizioni differenti sullo stesso, diciamo, argomento in 3-4 settimane, quindi non ci sia, cioè, ancora di più c'è puzza di bruciare. Ma quanto è politico il club? Nel senso, tu hai detto la parola sinistra, adesso non voglio tediare gli ascoltatori. In Catalogna è super politico, cioè il club è la Catalogna, per cui è molto semplice dire: ah, questo è un attacco che viene da Madrid, che è vero, perché il Mondo, il giornale di Madrid, però chi ha fatto l'attacco è lo stesso che prova, aveva buttato giù dal pero il presidente Calderon qua al Madrid, sì. È vero che ci può essere un interesse, no, da parte di Madrid, però non è tutto lì, insomma, e comunque quindi a livello politico cioè Barcellona rappresenta la Catalogna e quindi è chiaro che questo è un caso di Stato, però in questo senso Rosell qui non ha troppi amici, cioè non è stato protetto a livello politico. Neanche molto amato, no. È stato uno che si è insediato un po' contro la volontà di quell'anima libertaria del Barça, un po' controvoglia, controcorrente, contro tutto. Non del tutto, Carlo, perché cioè, però è vero questo. Cioè, allora, cosa succede? Lui era un avversario di La Porta molto amato, però anche La Porta, cioè, per farvi capire, perché è difficile capire la galassia a Barcellona, poi in un minuto è. Però cercate di capire questo. Nel 2008 La Porta viene, diciamo, è soggetto a una mozione di censura promossa tra gli altri dal suo ex vicepresidente che era Rosell, perché Rosell entra nel 2003 sì. con La Porta, poi nel 2005 esce. Sì. Nel 2008 fanno una mozione di censura e La Porta si salva per un pelo, perché ci volevano il 66% dei voti, ottengono il 61%, quindi si salva per un pelo, chiama Guardiola e parte il miglior Barça della storia. Sì. Questa è la galassia Barcellona. Sì. Dopodiché lui arriva, La Porta non può più presentarsi perché ha fatto 3 mandati, teoricamente potrà presentarsi al prossimo, cioè deve fare un turno di riposo, no? Quindi viene Rosell, e Rosell è il presidente che viene eletto con più voti di tutti nella storia del club, cioè sono 31.000 voti, il 61%. Comunque Filippo, era forte. Sì, sì, era fortissimo. Torniamo a parlare, adesso devo chiudere perché ho giornale radio. Mi fa piacere che anche in Spagna tutta la colpa sia dei giornalisti, del Mondo Deportivo piuttosto che del Mondo. Ci risentiamo, Phil, Pier con te lunedì. Tutti convocati. Io tornerei con Claudio da Roma, ma non hai parlato della risposta di Torre alla Juve, cosa hai paura della Juve? Non ho paura di nessuno, in linea di massima. Cosa dobbiamo dire della risposta di Torre alla Juventus? La leggiamo, ne prendiamo atto, la Juventus è stata molto dura, certamente in questa intricata, complessa, divertente vicenda di mercato. Io credo che la figuraccia l'abbia fatta l'Inter e non la Juventus, al di là della paura o non paura. Guardo la cosa dal punto di vista oggettivo, non come la guardano gli interisti, nemmeno come la guardano gli juventini. Claudio da Roma, buongiorno. Buongiorno. No, sono rimasto un po' scioccato dalle dichiarazioni dei Vietti, quindi se sta finendo il mandato adesso contro Scusi, i non, giudici. Mi perdoni, ma non ho capito. No, sono rimasto scioccato da... siccome sentivo il giornale, c'è Vietti che comincia a fare campagna, visto che a giugno finisce di fare il vicepresidente, allora con la politica. Vabbè, non c'entra niente quello con la... No, se vuoi parliamo pure di politica, c'è no, problema. No, ma anche il calcio è politica, no? Come no? Dunque, è la cosa più vicina alla politica. Allora, guarda... Quantomeno dal punto di vista della trasversalità. Tutti si interessano di politica, tutti si interessano di pallone. Il pallone poi viene in secondo piano. Sì. Perché avanti c'è sempre the money, no? The money, qualsiasi yes, cosa. Sir. Allora, guardi, premetto che io sono laziale, però l'altra sera con tutto il cuore, perché molti amici dicono ma tu sei laziale, ti favi Roma. Ti favo Roma, perché a me la Juve purtroppo è antipatica da secoli. Questo ci sta. È una squadra che vince sempre, però volevo fare un appunto a Conte. Io Conte me lo guardo, no? Io mi moglie lo guardiamo durante le partite, perché vedi l'allenatore, vedi che è sempre che gli manca un punto, pure se c'ha 20 punti di vantaggio, lo vedi che sembra che si è fatta un'iniezione o un mezzetto di cocaina. Ma e adesso sta vita. No, non scherziamo con queste robe, però. No, lui è stressato. Allora, Claudio, lasciamo perdere tutto il resto, faccio finta di non aver sentito quanto lei ha detto. Però il senso è che Conte è uno che le vive molto emotivamente. È uno che impone dei ritmi molto emotivi anche alla squadra. È uno che brucia tutte le volte di furia agonistica. Questo è vero, può non stare simpaticissimo, può non piacere l'approccio alle partite che ha. Secondo me è anche uno discretamente stressante per chi gioca con lui, per i giocatori stessi. Infatti ho detto molte volte che volendo ipotizzare uno scenario futuro, Conte vince il suo terzo scudetto, chiude in gloria l'avventura alla Juventus e magari l'anno prossimo si volta pagina, perché credo sia difficile per un allenatore così come per Mourinho, come era per Sacchi, come era per lo stesso Capello. Insomma, sono allenatori che ti chiedono tutto, che chiedono tutto ai giocatori, e con un allenatore così puoi vivere, secondo me, un massimo di 3 stagioni. Poi il rapporto comincia a deteriorarsi, eccetera, eccetera. Quindi molto, diventa molto difficile. Boh, ipotizzando uno scenario futuro, ma magari un giorno ne parliamo quando facciamo della fantascienza. Conte via, magari in Inghilterra, come scrive qualcuno, e Prandelli alla Juventus. Come la vedete questa? Un giorno ne parliamo, ma adesso un'altra cosa, un altro allenatore con cui parlare. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Ciao, Costan Peterson. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Voglio farti sentire una cosa, questa. Dan Hardaway give the Knicks a shot in the arm off the bench. Sets the table for Bargnani, look out! Scary play, and Bargnani, fortunately for him, Clyde, was able to break his fall. But boy, that's how you break a wrist. Fortuna Beninelli sta giocando molto bene, da Tome non si alza dalla panchina, per Bargnani e Gallinari serve un viaggio a Lourdes, caro coach. Questo è il racconto del momento in cui Bargnani, tentando di schiacciare, si fa male in maniera seria ad un gomito, fuori a tempo indeterminato il mago. Sì, veramente, infatti una delle grandi critiche di Bargnani a New York è che quando è libero per tirare rinuncia al tiro, palleggia il traffico in una selva di braccia, eccetera, rischiando di sbagliare, di prendere stoppata, di sfondamento, di perdere la palla. E quindi quando tu vai lì a schiacciare, devi schiacciare, non puoi farti del male. Questa è una tragedia per Bargnani, anche ovviamente per il basket italiano, perché ovviamente in estate volevano avere sia Danilo Gallinari che Andrea Bargnani. Sembra di no. Per inciso, New York è la squadra che gioca peggio nell'NBA, secondo me. Peggio. Poi il linguaggio del corpo, tu sai come la penso io di Carmelo Anthony. Adesso è colpa dell'allenatore, di Mike Woods. No, è colpa di Carmelo che trasmette questa che... Allora, io ti voglio fare un'ipotesi. Prendiamo Carmelo Anthony, lo mettiamo a Miami con la squadra campione dell'NBA, con Dwayne Wade, con Chris Bosh, con LeBron James. Te lo dico io. Miami non vince il titolo perché Melo, anziché andare lì a dire devo aiutare loro a vincere, lui va lì con la mentalità devo far vedere che io sono più bravo di LeBron. Questa è una malattia, ok? Non incurabile, fra l'altro. Come avrebbe detto Dan Peterson, è un perdente. Talento perdente si dice, ok? Quindi, e lui ha grande talento, forse il più forte giocatore uno contro uno NBA, perché è l'unico che è capace di tirare da tre, palleggio resto tiro e giocare sotto spalla canestro e segnare comunque anche su bene di falle. Qui talento ce l'ha, non lo nego assolutamente, è la testa che veramente vede le cose in maniera diversa. Senti coach, forse è meglio stare alla larga da Fale in Colorado, perché le ultime operazioni non sono andate benissimo. Gallo torna sotto i ferri, questa pessima notizia, ne abbiamo parlato anche una settimana fa, non era solo questione psicologica, era una questione fisica. Però anche Lindsay Vonn, Russ Westbrook, Giuseppe Rossi, insomma l'elenco di quelli che sono passati di lì e che hanno poi avuto diversi problemi ormai è lungo. Sì, ora la questione ortopedica è una cosa estremamente complicata. Io sono sempre l'idea di andare, come ha fatto Zeng qualche anno fa, andare ai migliori e lasciare il migliore trattarti, non a azzardare di andare a quello che è abbastanza bravo. O vai a migliore o non ci vai, questa è la mia storia. Sì, ma un anno e mezzo è tanto per un giocatore, anche se molto giovane come Gallinari. Non dimentichiamo che lui era stato fuori tanto tempo anche prima, nella sua prima stagione. Non dimenticare però, Carlo, anche Derek Rose è stato fuori per molto tempo, ok? Quindi più o meno lo stesso lasso di tempo. È un infortunio molto, ma molto, ma molto complicato. La cosa importante qui è che Danilo avrà una ristrutturazione fatta bene. Sì, questo sì che risolve finalmente questo problema, anche perché, ripeto, pur essendo molto giovane, di infortuni ne ha già avuti diversi. Tanto che a qualcuno può venire il dubbio, NBA troppo fisica per lui. Ma questo può anche darsi, ok? Però anche il basket europeo è molto fisico e si giocano con trasferte difficili, soprattutto in Coppa, 80 di partite l'anno, l'NBA gioca 82, tanto per dire, quindi è da valutare, però io Io penso che Danilo possa giocare lì, deve avere la fortuna di stare fuori dagli infortuni, anche forse una grandissima preparazione atletica per preparare lui per il campionato NBA, le botte che prende, le cadute che fa, eccetera. A proposito di basket europeo, ieri sera ho visto una grandissima partita, CSKA Real Madrid, con la prima sconfitta stagionale del Real Madrid da parte di Ettore Messina. Tra l'altro a CSKA mancavano i due americani, impresa vera, ma soprattutto un'intensità, una precisione sia difensiva che offensiva. Precisione intendo non solo per il fatto che hanno fatto canestro quasi sempre, ma proprio esecuzioni perfette ho visto ieri sera. Guarda, Ettore Messina non lo scopriamo noi adesso, che è un grandissimo allenatore, forse il miglior allenatore europeo. C'è una scelta molto limitata, c'è Messina o Obradovic, nominarmi un altro paio di allenatori di questo livello qua. Quindi Ettore, contro la sua ex squadra dove lui è andato via qualche anno fa, una soddisfazione enorme, e non mi sorprende niente. Intensità e esecuzione sono due marche di fabbrica, certo, di Ettore Messina. Sì, più o meno come per Gasperini battere l'Inter, fatte le dovute proporzioni domenica scorsa. No, un'ultima cosa, Cos, facciamo contenti un sacco di ascoltatori che ogni volta che parlo con te mi mandano 100 messaggi con la domanda: ma chiedi al coach cosa ne pensa di Brindisi, chiedi cosa ne pensa di Brindisi, te lo chiedo, così almeno sono tutti contenti. Ciao Brindisi, okay, quindi, allora, mi dai un minuto? Sì, certo. Allora, c'è Mino Tavri, brindisino qui a Milano, che ha scritto un libro su Brindisi Basket. Tutti a Brindisi mi fanno ricordare 81-82, quando abbiamo perso lì nella stagione regolare. Ovviamente riprendono il giro e dicono: come finite quella stagione? Ah, Peterson, voi Milano avete vinto lo scudetto, noi siamo retrocessi. Però Mino Tavri ha scritto, io ho detto: Mino, abbiamo perso la partita a Brindisi perché non c'era Meneghin. Allora lui ha scritto un libro con la fotografia copertina della partita con Meneghin in capo. Allora mi è venuto un dubbio, ho detto: oh, sto perdendo il conto, Meneghin ha giocato, non mi sembrava. Allora era la partita della fase scema, l'orologio, sì, e Mino non mi ha detto, quindi grandi Brindisi. Quindi un falso storico. Complimenti a Piero Bucchi e compagnia per presidente, per quello che stanno facendo, perché veramente una lezione. Loro mi piacciono perché vincono, stanno zitti, volano sotto radar, grande serietà, e prendono le sconfitte come lezione. Quindi tanti complimenti a loro. E prima o poi ci vuole anche un palazzetto, piuttosto andiamo noi a costruirlo. Io mi offro volontario per fare il muratore e costruire il palazzetto di Brindisi, perché vedere quella grotta in cui Brindisi ormai da tante stagioni gioca, e la gente fuori che non riesce, Carlo, ad entrare, è assurdo. Carlo, tu devi sapere che Brindisi manda più tifosi in trasferta, sì, lo so, di qualsiasi altra società. Hai ragione, hanno bisogno per il basket, per loro, per il basket italiano, un nuovo impianto con almeno 8.000 posti. Sì, grazie coach, ci sentiamo. Ciao, un abbraccio. Ciao coach Dan Peterson. Allora, vi do questa notizia ufficiale: Borriello in prestito al West Ham, e con lui salirà su quel volo anche Nocerino. Osvaldo, provincia di Lucca, 30 secondi per chiudiamo, dica. Salve, grazie della convocazione, un riconoscimento a voi che andreste portati al Louvre accanto al metro come unità di misura di trasmissione sportiva. Là. Un Oscar a Dan Peterson, perché è veramente un gran signore, andrebbe anche lui brevettato come tranquillante dalla signorilità e della calma che trasmette. E un avvertimento a Conte, che se la fa addosso tutte le volte che c'è un appuntamento che conta, è cosa veramente deplorevole. Lei dice. Sì, veramente, non ne posso più vedere tutte le partite che contano, che insomma rimane lì e non gioca. E questa è l'impressione che ha dato a me, ignorante, per l'amor del cielo. Questa è l'impressione che ha dato a lei. Io la raccolgo, la lascio lì e magari un altro giorno ne parliamo. Grazie davvero. Franco Piantoni, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti. Merci. Oh, ma cosa mi dici mai? Let's discuss with the management. Mamma, cosa mi dici mai? Mamma.